Ma quanta vetusta morale, siamo già oramai nell'età siderale. Cosa sarebbe codesta coscienza? Oggi ha valore soltanto la scienza. I vecchi monaci mi hanno cacciato, la loro magia m'ha molto stancato. A cosa servono ormai i loro riti e quel loro viver lassù da eremiti? Ora mi getto nella canzone di macchine, attrezzi e circuiti stregone, coi miei martingegni spettacolari farò del pianeta il mio proprio safari. Mi chiamano destino per una ragione, da me non si sfugge, fatevi ragione. Io sono il progresso senza ragione, e non mi importa se vi porterò al dunque. I miei genitori ormai sono andati e per un poco mi sono mancati, ma sono ormai senza affetto di scorta, ma senza più storie o radici di sorta. Ma non il coltello dell'assassino, ma il televisore di mi hanno strappato ogni legame, e i miei soli figli sono ormai di rame. Non credo nell'oggi né nello ieri, e neanche al domani van più i miei pensieri. Vivo nell'attimo cristallizzato, non c'è più tempo, è tutto crollato. Mi chiamano destino per una ragione, da me non si sfugge, fate ragione. Io sono il progresso senza ragione, ah, e non mi importa se vi porterò al dunque. Corazza è di scienza e saccenza, non mi trapassa nessuna sapienza. Rimbalza e saltella come pioggerella ogni profonda, ogni saggia favella. Alla fine del mondo è già arrivata, soltanto che voi non l'avete notata, perdendo il suo senso ed il significato. Del mondo non resta che il guscio svuotato. Mi chiamo destino per una ragione, da me non si sfugge, fate ragione. Io sono il progresso senza ragione, e non mi importa se vi porterò il dunque. E non mi importa se vi porterò.